Al Tour con Ivan Basso. Ancora insieme a Radio 24 sulle strade del Tour de France col nostro inviato d'eccezione Ivan Basso. Oggi c'è stata la seconda tappa, la cronosquadre all'Esessar, vince la Garmin Cervelo, nuova maglia gialla il campione del mondo Thor Hushovd con appena un secondo in classifica su Cadel Evans. Prestazione difficile, direi anche deludente, quella della Liquigas Cannondale, appena quindicesima. Basso che però conserva 45 secondi di vantaggio su Contador. Allora Ivan, cosa non ha funzionato oggi? Ma buonasera a tutti, sicuramente per noi non è stata una buona prova, su questo non ci sono dubbi. Io credo che è difficile trovare una motivazione, un'unica motivazione. Sicuramente ci sono stati alcuni atleti che hanno reso al di sotto delle aspettative, compreso il sottoscritto. Non sono soddisfatto chiaramente della mia prova, e questo ha influito poi anche nell'economia della prova di gruppo. Però questo io credo che non bisogna creare nessun allarme. La squadra è comunque unita, il tour finisce tra 3 settimane, quindi non è bello perdere dei secondi da altri favoriti di questo tour, però bisogna correre concentrati fino all'ultimo giorno, perché è un tour durissimo, è un tour che a mio parere si deciderà nella 3ª settimana. Un altro grande classico del tour sono le difficoltà e le trappole della prima settimana. Da qui a domenica qual è la tappa che ti preoccupa di più sotto questo profilo? Tutti i giorni, domani è una tappa molto difficile, non tanto dal punto di vista altimetrico perché è praticamente pianeggiante o leggermente vallonata, però nei finali di corsa bisogna stare molto attenti. Dopo domani il Mur de Bretagne, un arrivo importante dove ci saranno ancora dei distacchi, e poi è una prima settimana molto difficile dal punto di vista dello stress, dei pericoli, cadute, bisogna correre con attenzione e a volte ancora non basta. E allora grazie intanto a Ivan Basso. L'appuntamento, Ivan, è domani dopo il traguardo di Redon, sempre in esclusiva qui su Radio 24. Grazie, buona serata a tutti.